Cari Antonietta e Lorenzo, è vostro padre che scrive. Un papà di quelli un po' tradizionali, forse, che vorrebbe preservarvi ancora in quei valori familiari, antichi e necessari, eppure che sembrano inopportuni in un mondo sempre più veloce e pieno di tecnologia, in un mondo che appare oggi distratto dall'apparire e meno dalla sostanza degli uomini. Questo genitore, proprio perché tale, vorrebbe difendervi e preservarvi da qualsiasi minaccia di falso modello di vita esterno, secondo i suoi canoni, ma sa in definitiva che appartenete al mondo, quel mondo pieno di bellezze ed anche con realtà meno belle, e che dovete scoprire e affrontare e conoscere, sorreggendovi con le vostre gambe nel cammino della vita. Quelle gambe, oggi, di ragazzi e sicuramente con le mani di vostro padre e vostra madre, ma in un futuro prossimo, spero, sulle gambe forti di adulti, artefici del proprio destino. E quando rileggerete fra anni queste mie poche righe, magari anche voi genitori comprenderete meglio il mio augurio di un futuro onesto, radioso e dopo tutto retto, non solo nei rapporti con il prossimo, ma soprattutto verso se stessi, che vi consenta di vedere ed affrontare la vita senza offuscamenti di sorte. Un augurio che si estenda a tutte le nuove generazioni e che sono la speranza di noi adulti. Firmato il papà.